9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci tornati in studio, Oscar Giannino torna a salutarvi. Questo primo luglio il tema della giornata, lo ripeto, è come valutare gli insegnanti, soprattutto quelli universitari oggi, ma non solo quelli universitari, con criteri che mettano a fuoco la loro produttività, il loro merito nel fare ricerca oltre che nella didattica, come farlo con graduatorie comparabili a livello internazionale, come mettere merito ed eccellenza al centro di una missione nazionale trascurata, quella della formazione del miglior capitale umano. Noi abbiamo un capitale umano che nelle graduatorie internazionali è un gap che grava sulla nostra produttività, sulla nostra capacità di competere, e questo meccanismo significa nel sistema della formazione universitaria che ogni anno c'è il cosiddetto brain drain. Che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un prosciugamento delle eccellenze italiane che vanno all'estero, restano all'estero e non tornano in Italia, quindi zero brain gain. Noi non riusciamo ad attirare il meglio dei cervelli del mondo che vengano nel nostro sistema universitario, perché appunto non è considerato di eccellenza. Il problema è quindi come fare graduatorie, come far accettare ai professori, non solo agli studenti, di essere valutati. Chiamate allo 800 24 00 24 per porre domande ai nostri ospiti di oggi su questo. Vi ricordo anche il numero per gli sms 349 238 6666 e la email 9in.chiocciolaradio24.it. Ecco, passo a presentare gli ospiti della giornata. Abbiamo con noi innanzitutto la dottoressa Rita Clementi. Buongiorno. Buongiorno. E che in questi giorni ha consentito a noi tutti di rilanciare questo dibattito, ha scritto una lettera al Presidente della Repubblica Napolitano, e in questa lettera pubblicata dal Corriere.it e poi dal Corriere della Sera ha esposto le ragioni per le quali, dopo una brillantissima, almeno così sarebbe considerata in altri paesi avanzati, carriera universitaria, perché è laureata in medicina, ha due specializzazioni in pediatria e genetica medica e ha condotto per molti anni ricerche avanzate sul tema delle ascendenze genetiche dei linfomi maligni, malgrado tutto questo e malgrado grazie alla sua ricerca si siano fatti brevetti che le istituzioni universitarie italiane per le quali lavorava poi hanno fatto decadere nel tempo, non è mai riuscita ad avere in realtà un meccanismo che la stabilizzasse nell'università italiana, e quindi oggi stesso ha annunciato al Presidente della Repubblica in partenza per Boston, dove lavorerà come ricercatrice in un centro medico, quindi l'ennesima riproposizione del tema della giornata. Poi abbiamo con noi il prorettore per le relazioni internazionali dell'Università Bocconi di Milano, il professor Fulvio Ortu. Buongiorno professor Ortu. Buongiorno a lei, buongiorno a voi. E poi abbiamo il direttore della Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto. Buongiorno Gavosto. Buongiorno. E in questi anni la Fondazione Agnelli sta meritoriamente occupandosi di porre tra tanti temi di ricerca su cui analizza e mette insieme nuovi dati, esattamente quello di il criterio di come premiare, per così dire, anche dal punto di vista retributivo, gli insegnanti degli istituti medi superiori e anche quelli universitari, ponendo quindi il merito al centro della questione. Cominciamo con la dottoressa Clementi. Quanto grande è l'amarezza per questa sua scelta di andare negli Stati Uniti? Buongiorno direttore, la ringrazio innanzitutto di aver voluto dedicare tutto questo tempo la sua trasmissione a un problema così importante. La mia amarezza, rispondo alla sua domanda, è tantissima, perché è chiaro che la mia vita, la mia storia è la dimostrazione che anche in Italia si può fare ricerca e ad ottimi livelli, perché io non sono mai espatriata, ho sempre lavorato in Italia con gruppi italiani e ho ottenuto risultati che sono riuscita a ottenere. Il fatto che poi tutto questo non abbia portato non tanto e non solo a una mia stabilizzazione, ma anche a un mancato riconoscimento di quello che ho fatto, allora ecco, questo è stata la molla che ha fatto così scattare la decisione. Posso chiedere la diretta sua testimonianza dopo tanti anni di attraversamento, per così dire, dell'arcipelago universitario italiano? Dovesse dire in due proposte come cambiare il meccanismo di selezione, oggi basato sulla cooptazione, il baronaggio dei concorsi e così via, e poi quello del riconoscimento della qualità della ricerca fatta. Ecco, su questi due temi che cosa bisognerebbe cambiare secondo lei? Allora, innanzitutto sono diversi gli ambiti nei quali si lavora. Io parlo del mio ambito, che è quello scientifico, perché poi la giurisprudenza, l'economia hanno altri diciamo parametri di misurazione della qualità del prodotto, della ricerca. Nel mio ambito ci sono le pubblicazioni, le riviste hanno l'impact factor, e già questo può essere un parametro internazionale, già questo può essere un ottimo parametro. I brevetti o le scoperte sono altri parametri, e sicuramente quello che manca in Italia, almeno a mio parere, è una valutazione ex post, cioè che cosa fa quella persona che tu hai assunto, alla quale hai dato un posto di ricercatore di associato dopo che tu l'hai assunta. Professor Orto, lei proprio l'altro ieri ha presentato un paper sul tema di, ponendosi una questione, cioè se siano attuabili anche in Italia le migliori pratiche internazionali per il reclutamento e gli incentivi alla ricerca, i due punti focali di cui ci occupiamo oggi, e portava appunto in questo paper l'esperienza della Bocconi. La Bocconi è una libera università, ma questo non significa che sia sciolta da naturalmente il sistema normativo generale complessivo che grava e caratterizza l'università italiana, però lamentava il fatto che per quanto la Bocconi sia un'isola di eccellenza, per esempio oggi le università cinesi siano meglio in grado di competere per attirare il meglio del meglio nella ricerca, per esempio anche con retribuzioni più elevate. Mi ha fatto molto riflettere il fatto che le retribuzioni siano più elevate oramai in Cina piuttosto che alla stessa Bocconi. Ci spiega comunque come alla Bocconi avete tentato di affrontare la questione, per esempio, di attirare i migliori, perché c'è qualche cosa un po' di diverso dal resto del sistema universitario italiano. Sì, grazie per darmi l'opportunità di raccontare un po' queste cose. Un primo punto: noi cerchiamo di essere competitivi anche con la Cina, quindi le remunerazioni sono un pochino più alte, per fortuna, di quelle cinesi, se no rischieremo di perdere giovani e brillanti ricercatori anche per le università cinesi. Il punto fondamentale per noi è quello... Lo dico perché, per consentire a chi ci ascolta di capire, lei diceva che alcune università cinesi, quelle insomma che sono più attive in questa specie di promozione internazionale, offrono per un primo impiego, cioè quello di assistant professor per intenderci in termini anglosassoni, 50.000 euro rispetto ai 20-22 mila euro delle università italiane oggi. Sì, certo. Per essere un po' più precisi, i 22 mila euro sarebbero lo stipendio iniziale di un ricercatore universitario nell'università italiana. Ci sono alcune università cinesi, ad esempio Shanghai Jiao Tong, che è una delle migliori università cinesi che sta a Shanghai, che offre un package intorno ai 50.000 euro. Questo lo so di prima persona perché un mio studente di dottorato che ha finito quest'anno ha avuto un'offerta, mi ha mostrato la lettera di offerta e lì c'era scritto l'intero package, quindi è una testimonianza, diciamo, attuale di quello che è successo. Quello che cerchiamo di fare noi è di non fare più concorsi a livello di ricercatore universitario. Diciamo che sia una posizione penalizzante da entrambe le parti. Da un certo punto di vista si prendono persone che sono relativamente stabilizzate ma con salari molto bassi e quindi con nessun incentivo e sottoporsi a questa prospettiva di carriera che può essere e che può portare a esiti che io definirei onestamente drammatici come quelli della dottoressa Clementi. Dall'altro punto di vista, quello che secondo noi è importante fare è avere un periodo iniziale di verifica nella quale la persona viene remunerata in maniera molto più decorosa, il ricercatore intendo dire, messo nelle condizioni di fare il meglio in termini di produttività scientifica, e dopo un periodo di 5-6 anni deve essere valutato e a quel punto decidere se dargli un contratto a tempo indeterminato, quella che nella, diciamo, terminologia anglosassone viene chiamato sistema di degno. È un po' quello che cerchiamo di attuare noi ormai da 6-7 anni. Professor Orto, in Italia qualche anno fa si era tentato di introdurre un sistema di valutazione della qualità della ricerca in termini comparati dei diversi atenei italiani, si chiama CIVR in sigla, no? La valutazione, certo, della ricerca. Le chiedo, per l'esperienza che lei ha dei diversi ordinamenti internazionali, io sono un sostenitore per esempio del metodo che da metà degli anni 80, dall'86, fu introdotto in Gran Bretagna, che aveva problemi di dequalificazione del sistema universitario secondo me molto simili al nostro, e questo Research Assessment Exercise ha fatto innalzare molto la gara alla qualità di ricerca nel sistema universitario britannico. Le faccio una domanda su quale sia il sistema per lei, o se dovessimo semplicemente evolvere il CIVR, che in realtà poi non è mai stato sviluppato molto. Gli faccio questa domanda anche perché, per chi fosse interessato, oggi trova sul Sole 24 Ore una interessante pagina, tanto per capire come poi i criteri comparati sono un pochino anche arbitrari a volte, e c'è questa pagina Sole 24 Ore in cui si paragona sistemi diversi di fare il ranking, cioè le graduatorie di qualità dei maggiori atenei mondiali, e con metodologie diverse, per esempio il TES, quello che è il Times Higher Education, e invece l'ARVU, che è fatto proprio dall'università cinese che lei ha appena citato. In realtà il ranking anche dell'università italiana internazionale è molto diverso. A quale modello guardare, secondo lei, professor Orto? Ma guardi, il modello inglese è un modello che ha molti meriti e secondo me è quello che forse sarebbe più facilmente implementabile nella nostra realtà. Sperava che il CIVR fosse un passo forte in quella direzione. I lavori fatti dal CIVR sono stati, secondo me, di altissima qualità. Poi però si è un po' arrestato il meccanismo, poi c'è stato un nuovo governo che ha deciso di prendere una nuova direzione rilanciando con questa Agenzia Nazionale della Valutazione dell'Università e della Ricerca. Purtroppo poi con i passaggi da governo a governo queste cose si sono incagliate, questa agenzia non è ancora operativa e il CIVR, quell'esercizio che era stato fatto molto bene e potrebbe essere stato e poteva essere molto utile, non ha avuto ancora un effetto. Adesso si sta parlando di allocare una parte del fondo di finanziamento ordinario in base ai alla produttività scientifica da diverse unità, stiamo aspettando, immagino tutti quanti, che qualcosa succeda. Il sistema inglese però potrebbe essere sicuramente un sistema al quale guardare, soprattutto, mi consenta, il sistema inglese non permetterebbe mai, proprio per come è disegnato, che una persona come la dottoressa Clementi fosse lasciata andare via. Sono completamente d'accordo per la mia esperienza all'università britannica. Sì, perché sarebbe la stessa università, in questo caso Pavia, che verrebbe punita. Esattamente, che verrebbe punita poi nei meccanismi di valutazione. Quindi questo è uno dei criteri intanto da mettere a fuoco, il che significa che le università dovrebbero accettare anche livelli premiali diversificati. Alcuni ascoltatori, e poi poniamo le domande degli ascoltatori al dottor Gavosto. Iniziamo con Ivano da Modena. Prego Ivano. Buongiorno, grazie per avermi ospitato nella vostra trasmissione. Io sono un dottore di ricerca, Università di Bologna, ho finito il mio corso di dottorato. Io ringrazio per l'attenzione a questo tema perché mi sembra particolarmente importante e vorrei sottolineare solo un aspetto. Intanto sono un dottore di ricerca in filosofia e quindi porrei anche l'attenzione alla ricerca in Italia non solo sulle materie scientifiche, mediche, eccetera, certo. Ed è molto importante anche per le materie, diciamo, non scientifiche, soprattutto in un paese come l'Italia, che è un paese di grande tradizione e importanza per gli aspetti umanistici e artistici di questo territorio. Guardi, io pongo solo una questione molto semplice, al di là, diciamo, della diversa efficacia dei sistemi di valutazione dell'università. Ritengo importante tornare ad alcuni elementi di buon senso nella selezione del personale universitario e in particolare ad alcune questioni fondamentali rispetto anche a come il personale universitario, i docenti universitari vengono poi giudicati. Quindi io parlo per l'esperienza dell'Università di Bologna, dove ci sono professori che non hanno pubblicato un libro da 10 anni, che non pubblicano articoli da decenni, che hanno carriere universitarie molto solide, andate avanti nel corso degli anni acquisendo, diciamo, tutti i benefit possibili, quindi arrivando, diciamo, all'apice della propria carriera con un curriculum universitario di pubblicazioni che è largamente inferiore a quello di un ricercatore di 35 anni. Grazie Ivano da Modena. Lei, mi pare di capire, ci sta sottoponendo la questione delle diverse riforme, ma nessuna delle quali ha risolto il problema, del meccanismo del concorso pubblico, delle liste di idoneità rispetto all'impact factor della ricerca effettuata, ai titoli. Devo anche sottolineare che a volte i criteri attraverso cui si scelgono delle pubblicazioni scientifiche internazionali per valutare l'impact factor in Italia a volte sono un po' sospetti. Un'altra ascoltatrice, in questo caso Antonella da Brescia. Prego Antonella. Buongiorno. Volevo innanzitutto esprimere tutta la mia solidarietà alla dottoressa Clementi, perché anch'io ho letto il suo articolo sul giornale 2 giorni fa e mi sono vergognata di appartenere a questo paese davvero. Io insegno in una scuola superiore e posso solo dire questo, che non sono d'accordo sui test di ammissione all'università, che sono necessari per gli alunni che escono dalle classi quinte. Non sono d'accordo per come sono fatti da noi, perché purtroppo, soprattutto in certe facoltà scientifiche, lasciano fuori tutti quei ragazzi che riescono con i voti più alti. Questo me lo dovete spiegare, come succede? Cioè, è capitato l'anno scorso, 2 anni fa, in un gruppo abbastanza consistente qui nella mia città, nell'Università di Medicina, sono state escluse ragazze che hanno preso voti come 100 alla maturità. Ecco, io davanti a queste cose vorrei un po' capire, ecco, secondo me il ragazzo si seleziona valutandolo sugli esami, non su dei quizzoni fatti al momento, dove noi sappiamo purtroppo che ci sono in Italia, c'è la corruzione, c'è chi paga, chi manda i figli a fare i corsi costosissimi per poter accedere all'università e poter superare questi test, e io trovo che questo sia davvero una cosa da non fare, cioè perché quelle famiglie che non possono permettersi il professore privato, che non hanno alle spalle genitori o parenti che fanno i medici, che fanno i farmacisti, che fanno i biologi, i figli non possono accedere a questa università perché non hanno la giusta, secondo me, non preparazione. Grazie Antonella da Brescia. Adesso al dottor Gavosto pongo una questione che viene da un SMS e dice: in realtà i professori dovrebbero essere anche valutati per i risultati dei loro alunni, e mi sembra che questo centri un po' il filo del ragionamento delle ricerche fatte dalla Fondazione Agnelli, o no? Esattamente. Finora appunto abbiamo parlato, diciamo, di valutazione della ricerca, c'è sia all'università sia nella scuola, ovviamente anche da valutare la qualità dell'insegnamento. Noi per esempio nell'ambito piemontese abbiamo provato a fare degli esercizi di valutazione su aspetti specifici come le scuole superiori preparano per esempio per l'università, e abbiamo pubblicato, diciamo, questa graduatoria, insomma, diciamo che in Piemonte se ne è discusso un po'. Devo dire, non so se introdurre una nota di ottimismo, ma secondo me sì, che in realtà nessun preside ha contestato il principio che la scuola debba essere valutata sulla base dei risultati degli allievi. Si è discusso, ed è corretto che sia così, molto sui criteri, i metodi di valutazione, però il principio, e questo forse è un progresso rispetto a 10 anni fa, il principio che le scuole e le università vadano valutate, secondo me, comincia a entrare anche in questo paese. Secondo lei anche un domani verrebbe accettato il principio di modificare le basi retributive dei docenti? Beh, questo è molto più difficile, però secondo me va fatto, per, come dire, l'altra faccia della medaglia. Avete parlato del RAE inglese. Uno degli elementi che ha portato al successo del RAE inglese, oltre appunto a un criteri di valutazione molto serie, con partecipazione anche di esperti internazionali, e che la possibilità anche di differenziare le retribuzioni dei professori, cosiddetti high flyer, nel senso che i dipartimenti che vogliono indurre o trattenere, come sarebbe il caso della dottoressa Clementi, un ricercatore d'eccezione, hanno in Inghilterra la possibilità di modificare o il carico di insegnamento o la retribuzione, quindi personalizzare, diciamo, gli incentivi per attrarre o indurre o trattenere una persona. Benissimo. Oscar Giannino torna in studio. Nel frattempo il ministro per le infrastrutture e trasporti Matteoli sta rendendo la sua prima testimonianza in Parlamento per la ricostruzione del disastro di Viareggio. Vi darò poi aggiornamenti nel corso della trasmissione. E subito due ascoltatori e poi torniamo con la dottoressa Clementi. Luca da Milano, prego. Buongiorno, sono docente al Politecnico di Milano e volevo portare la mia esperienza anche a livello internazionale. Noi al Politecnico già da tempo abbiamo meccanismi di valutazione dei docenti e abbiamo anche meccanismi di valutazione della ricerca, che per il momento sono usati, diciamo, a scopo di test interno per verificare i risultati. Quindi dei meccanismi interni, professore? Sì, è inutile spiegare che ci sono in realtà, comunque, questi meccanismi di valutazione sollevano discussioni, e lo dico senza problemi, molto controverse, perché è molto difficile trovare sistemi che siano uniformi, per esempio nel nostro caso, che valgano per esempio per ingegneria informatica e per esempio per design o per architettura. E se posso chiederle, per fare capire a chi a casa è non esperto di cose universitarie dal di dentro, da questo meccanismo di valutazione che si è dato al Politecnico di Milano, quali conseguenze concrete discendono poi sui professori? Allora, per il momento conseguenze dirette non vi sono, se lei intende conseguenze strutturate, quindi sulla carriera, di risorse interne, ecco, carriera. Allora, sulla carriera direttamente non si può, come voi ben sapete la carriera è regolata da dei meccanismi. Sull'assegnazione invece di risorse interne sì, questo ovviamente sì, ha degli impatti per esempio sull'assegnazione di fondi, piuttosto che sulla possibilità di partecipare a gruppi di ricerca o di gestire laboratorio, di gestire strutture. In ogni caso questo per il momento è fatto a livello sperimentale interno. Sulla base però io volevo portare due punti importanti. Per prima cosa io vorrei un po' ribaltare un pezzo del discorso. Io non credo che il brain drain sia un problema. Anzi, al contrario, lo vedo come un segnale molto positivo, significa che l'università italiana riesce a produrre ricercatori di qualità internazionale e che sì, questi ricercatori però poi sono... per avere poi il riconoscimento e per affinare la qualità della ricerca se ne vanno e non tornano. Il problema è che, allora, questo dimostra, ripeto, che che abbiamo anche ricercatori che sono ben inseriti nei network internazionali e si muovono, quindi il fatto che si muovano a mio parere è un segnale normale ed è normalissimo ed è soprattutto è un fenomeno mondiale, cioè in questo momento in tutte le università del mondo, soprattutto le migliori, stanno facendo a gara ad attrarre i migliori ricercatori. Come lo fanno? Il problema è qui dove noi falliamo, noi non riusciamo a attrarre i migliori ricercatori e le due cause fondamentali le avete già dette. La prima, mi spiace dirlo, sembrerà retorico e noioso, ma mancano i soldi. Noi non siamo in grado di offrire livelli economici. Su questo torneremo proprio con la dottoressa Clementi. Il secondo? E il secondo è le possibilità di carriera che sono legate a, di nuovo, come la governance universitaria, le possibilità di struttura, al fatto che noi comunque siamo, e questo è inutile, bisogna ricordarlo, soprattutto nelle università, la nostra è stata statale completamente, e abbiamo una burocrazia oppressiva che ha degli impatti molto negativi anche sulla produttività e sulla modalità di fare carriera. Questo è sono d'accordo, ringrazio il professore del Politecnico da Milano, Umberto da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Sono un ex studente, visto che ho 63 anni, e sono il papà di un ex studente. E devo dire con grande meraviglia che ancora oggi non riusciamo a renderci conto che è l'università pubblica che non funziona. Quello che funziona è l'università privata, le università migliori, le più qualificate, i loro professori sono bravi e li pagano bene. Qui da noi invece, siccome è pubblica e le cose pubbliche sono di nessuno, i vecchi professori ho la massima indifferenza. La mia esperienza è un mio collega iscritto all'università ormai al nono anno fuori corso mi ha fatto l'esame di geografia economica. L'ho trovato come professore, questa è stata la mia esperienza allucinante. Allora dico, quindi lei dice che bisogna liberalizzarla perché l'università pubblica non può mettere al merito. È il mercato che poi farà i bravi professori che saranno ben pagati, quelli impegnati saranno loro a trovare i fondi e le risorse per la ricerca e saranno loro ad dimostrare e introdurre i giovani nel mondo della ricerca, perché avranno interesse. Grazie Umberto da Roma, è molto chiaro, le libere università hanno la possibilità di decidere quanto pagare i migliori e come sceglierli. Torniamo alla dottoressa Clementi, perché voi avete sollevato un problema, quello delle risorse che non bastano. Io leggo una frase, che chiedo poi alla dottoressa Clementi di commentare, una frase della lettera proprio che ha rivolto al Capo dello Stato, ed era verso la chiusura della sua amara lettera da cui stiamo prendendo spunto oggi. Diceva la dottoressa Clementi: è sufficiente anche in Italia incrementare gli stanziamenti? Purtroppo no. Questa era la sua risposta. Se il malcostume non verrà interrotto, se chi è colpevole non sarà rimosso, se non si faranno emergere i migliori, gli onesti, dare più soldi avrebbe come unica conseguenza quella di potenziare le lobby che usano le università e gli enti di ricerca come feudo privato. Dottoressa Clementi, le chiedo un commento su questo, perché altrimenti l'equivoco è sempre di dire in Italia non spendiamo abbastanza. Infatti, perché da una parte è vero, non spendiamo abbastanza, però se questo meccanismo perverso non viene corretto, incrementare i fondi comporterà un incrementare del malcostume, non se ne esce. Fino a quando non si rende virtuoso tutto questo sistema, fino a quando chi, come ho anche scritto nella lettera, ad esempio è stato condannato in via definitiva per avere truffato gli esami, li può ancora fare, non ne usciamo. Perché comunque poi la ripartizione dei fondi, abbiamo visto anche lettere di fior fior di ricercatori, non è anche questa trasparente, no? Io le devo dire che stiamo raccogliendo un numero molto elevato di sms che esprimono un'amarezza quasi maggiore della sua, perché in realtà molti ascoltatori di Radio 24 le dicono: ma lei sta partendo per gli Stati Uniti, parta e non torni, perché va comunque verso un'eccellenza e un sistema che è in grado di premiarla. Guardi, Io, scusi, ieri ho ricevuto più di 150 mail di solidarietà, e ringrazio tutti quelli che me l'hanno scritto, ma di queste 150, 100 erano di ricercatori che erano all'estero, in America, oppure anche nel nord Europa, e tutti mi hanno detto: non ci viene assolutamente, minimamente in mente di tornare, stiamo troppo bene qui, ci mancano certe cose, ma qui noi possiamo lavorare. In pochi anni abbiamo fatto la carriera che in Italia in lustri non abbiamo fatto, e questo è tristissimo. È una sconfitta, no? Direi che è una sconfitta. Io stesso, nella mia formazione post-universitaria a Chicago, che ho fatto troppo avanti negli anni, penso che se l'avessi fatta prima, la mia prima sensazione era quella che non avrei mai più voluto tornare in Italia. Devo raccontare che quando mi capitò, che io ho 3 Nobel nel mio corpo insegnante, che la prima settimana si rendevano disponibili 2 sere alla settimana con noi studenti che ponevamo a loro i problemi teorici, e con un'università italiana questo non mi era mai capitato. Se posso, le dico la mia esperienza. Io, per ottenere questo contratto, ho semplicemente inviato via mail a persone che non conosco, se non per la loro qualità scientifica, per la loro produzione, perché chiaramente ho inviato le mail, il mio curriculum a istituti dove per poco ci si occupa di quello di cui mi occupo io, e tutti mi hanno risposto, tutti i direttori di dipartimento ai quali io ho mandato la mia lettera, il mio curriculum, hanno risposto. Questo in Italia non accadrà mai. Una persona sconosciuta non può porsi o proporsi se non è, perché non avrà mai o quasi mai risposta. Professor Orto, nella sua esperienza, che cosa ci impedisce davvero di arrivare a una lista di idoneità nazionale per l'insegnamento da cui le università siano poi libere di assumere e ricercare, invece delle esperienze che abbiamo alle nostre spalle di concorsi in cui l'elemento locale, e quindi il meccanismo di cooptazione per cordate accademiche, si è sempre dimostrato prevalente? Onestamente io non ho un'esperienza di politico, non ce l'ho mai avuto e non penso che ce l'avrò mai, quindi non so cosa impedisca di farlo. Secondo me sarebbe una cosa importante. Però io le chiedo, sa, qui la resistenza non so se sia maggiore dalla politica o dagli stessi baroni universitari. Il panorama è molto variegato, secondo me. Ritengo che, molto onestamente, la nostra posizione è che riteniamo che sarebbe importante avere invece una lista di idoneità dalla quale le università possono chiamare con criteri solidi, trasparenti, ma interni e locali, i docenti. Molte università e molti colleghi di molte università sarebbero contenti di poter fare questa cosa. Diventa fondamentale, ed è molto legato a quello che diceva la dottoressa Clementi, diventa a quel punto fondamentale però avere un meccanismo che premi e punisca le università che chiamano fra virgolette bene e fra virgolette male. Un'università, ad esempio, che non vuole chiamare una persona come la dottoressa Clementi dovrebbe essere punita. In che senso? Nel senso che le assegnazioni di fondi dal Ministero dovrebbero essere minori. Quindi è fondamentale avere la lista aperta, sì, ma insieme a un meccanismo premiante e trasparente che dica: guarda che tu puoi pescare da questa lista, ma se prendi i migliori, se vuoi competere per i migliori sarai premiato, se riesci ad attirare i migliori sarai premiato, se invece non ti interessa prendere i migliori ovviamente sarai in termini relativi punito. Dottor Gavosto, nelle sue ricerche e anche nell'articolo che poi il Corriere della Sera le ha pubblicato qualche giorno fa, lunedì 29 giugno, lo stesso giorno in cui pubblicava la lettera al Presidente della Repubblica, della dottoressa Clementi, c'è una riflessione che vedo riscontra anche molto interesse dei nostri ascoltatori, perché gli ascoltatori sono divisi in due. Da una parte si chiedono: ma in realtà mettere la ricerca delle materie umanistiche a uno stesso livello di attenzione di quella delle materie scientifiche, economiche, ingegneristiche, medicali e biomedicali è un po' sbagliato. Dall'altra parte lei invece sollevava proprio una questione, poiché è evidente che un laureato in materie scientifiche che lavora fuori dalla scuola guadagna in media il 30% in più di uno che insegna. In realtà il meccanismo differenziale retributivo, oltre che degli fattori di cui abbiamo già parlato, bisognerebbe che tenesse in considerazione anche questo fatto, cioè una diversificazione dell'impatto che i diversi insegnamenti hanno anche ai fini, insomma, del contributo e della valutazione che il sistema economico ne fa. Corretto, nel senso che è chiaro che come dire, un pacchetto, una retribuzione ha diversi elementi. C'è un elemento premiale di cui abbiamo parlato fino adesso, basato su criteri di valutazione, che tra l'altro su questo forse vale la pena distinguere, mentre nell'università forse è corretto premiare il singolo ricercatore, il merito del singolo ricercatore, nella scuola, diciamo dalle primarie alle superiori, secondo noi ha più senso premiare il lavoro collettivo, diciamo il lavoro d'équipe della scuola. Però diciamo, quindi c'è un elemento premiale e poi c'è un elemento di risposta, come sottolineava lei, alla situazione di fatto. Un dato che appunto emerge nelle nostre ricerche, forse meno noto, è che in realtà tutti pensano a 250.000 circa precari che vogliono entrare nel sistema scolastico italiano, però la situazione è molto differenziata. Ci sono regioni prevalentemente al nord e soprattutto discipline, matematica, scienze, materie sanitarie eccetera, dove c'è effettivamente ormai una carenza di insegnanti. Su 8.000 graduatorie per gli insegnanti appunto della scuola, del sistema scolastico italiano, ormai 1.500 non hanno più persone in graduatoria, quindi sono sostanzialmente di fatto esaurite. Questo significa che per attrarre i migliori laureati, soprattutto nelle materie scientifiche, bisogna pagare di più alla fine. Mentre dalle nostre ricerche emerge che mentre nelle materie umanistiche la scuola riesce ancora ad attrarre i migliori laureati, questo non avviene in queste altre materie. Gatto oggi è arrabbiato perché insomma, il problema di valutare e dare i voti e differenziare le attribuzioni dei professori, mi sembra che ci giriamo intorno, ma le resistenze sono molto forti. Un ascoltatore, Simone da Varese. Allora, beh, innanzitutto dall'esterno potrei dire magari delle sciocchezze, però dall'esterno la sensazione che si ha guardando il mondo della scuola e dell'università in Italia è quella di un enorme, grandissimo ufficio postale. Nel senso che, ad esempio, io una proposta che potrei fare è chiamiamo i concorsi. Come la dottoressa che è ora in fuga, bisognerebbe porre la responsabilità di scelta su il professore che è quello che dovrebbe avere in mano i fondi, e come trovare il modo di dirottare, insomma attrarre questi fondi. Il potere deve essere dato in mano al cliente studente. Lo Stato sa più o meno in media quanto si spende per ogni studente, dà in mano alla famiglia, allo studente, la possibilità di finanziare l'università, la scuola in base al merito. Questa cosa naturalmente, se quindi lei venisse... dice, se lo Stato desse dei voucher alle famiglie, quelle famiglie libere, esatto, di scegliere in base alla propria valutazione della qualità dell'offerta formativa dove spenderlo, questo introdurrebbe un meccanismo di selezione dal basso, ma a patto di levare il titolo, insomma il valore legale del titolo di studio. Il valore legale del titolo di studio, mi è chiarissimo. Questo lei ha presente che è una rivoluzione culturale praticamente, perché significa accettare che viviamo in un mondo in cui la libera scelta della famiglia come cliente della formazione del capitale umano viene posta al centro di tutto, tanto che lo Stato mette nelle sue mani la facoltà di scegliere il voucher, dove spendere il voucher. Questo significherebbe un attacco a quello che invece viene considerato uno dei presidi del sistema formativo, cioè il suo valore pubblico, il fatto che le regole uguali per tutti, con lo Stato che decide a chi dare, significa in teoria promuovere l'eguaglianza, valore costituzionale. Io la penso come lei, però giro immediatamente alla ricercatrice di cui stiamo celebrando in qualche misura la partenza, augurandoci che a Boston naturalmente abbia un futuro migliore, cioè la dottoressa Clementi. Lei, nella sua esperienza, io le devo fare una domanda precisa, ci aiuta a capire una cosa: perché i brevetti che lei contribuì con le sue ricerche a realizzare non vennero giudicati dalle istituzioni universitarie presso le quali lavorava degni di essere tutelati e sviluppati, e quindi non degni di essere poi messi anche in pratica dal punto di vista economico? Sul meccanismo del ritorno economico dei brevetti che vengono da ricerche come la sua, forse non sarebbe il caso di ripensare le regole, di cointeressare di più il ricercatore e in parte l'istituzione universitaria per cui il ricercatore lavora, in maniera tale che dall'utilizzo di questi brevetti possa esserci un meccanismo premiale? Certo, ma Innanzitutto il brevetti, quando la scoperta viene effettuata all'interno di un istituto, in pratica non è il ricercatore che lo fa, ma è l'istituto o gli istituti che applicano per il brevetto. Nel mio caso non è stato valutato abbastanza interessante, per cui non è stato rinnovato. Diciamo che chiaramente io mi sono trovata poi con un titolo in meno, non so come dire, no? È sempre un'arma anche questa, quella di togliere invece di lasciare. Certamente. Professor Ortu, ci si priva di qualcosa per privare un altro. Certamente. In alcuni casi. Professor Ortu, uno dei meccanismi, sto pensando soprattutto all'economia in questo caso, pensando anche alla Bocconi e alla sua esperienza come protettore della Bocconi, però una delle cose su cui forse riflettiamo poco è che, a proposito della fuga dei cervelli, il brain drain, e a proposito soprattutto del brain gain, cioè della capacità di attirare i migliori, non è solo una cosa che riveli la qualità e l'eccellenza di un sistema formativo universitario e post-universitario, in realtà poi c'è una ricaduta economica nel prosieguo, diciamo così, dell'occupazione, dell'ingresso nel mercato di queste eccellenze formate dei diversi sistemi universitari nazionali, su quali forse dovremmo avere più attenzione. I paesi in via di sviluppo in questi anni hanno sviluppato una grandissima capacità di attirare capitale umano da formare, che poi dà un contributo essenziale alla crescita della loro produttività. Dal nostro punto di vista, cosa si può pensare per non impedire solo la fuga dei cervelli, ma per attirare di più studenti dai paesi in via di sviluppo che hanno straordinarie a volte qualità intellettuali? Ah, è fondamentale, questa è la scommessa del futuro. Sono stato per questioni di lavoro in India a dicembre con una delegazione della mia università e c'era una riunione dei dean, insomma, diciamo dei presidi di varie facoltà di economia un po' di tutto il mondo, ospitata dagli indiani, e il dato che è emerso, straordinario e interessante, è che la domanda di education in India nell'ambito economico manageriale è di circa 500.000 unità all'anno, e le scuole indiane possono offrire un posto a questi, al massimo al 20% di questi studenti. C'è una domanda inevasa dell'80%, ci sono persone che vogliono fare studi di economia e management in India e che non riescono a trovare, perché nel loro paese, una collocazione all'università, perché non ci sono posti. Questa è la domanda alla quale noi dobbiamo soddisfare, è un mercato fra virgolette che dobbiamo soddisfare, dobbiamo cercare di attrarli anche tramite delle partnership con queste università. Quello è secondo me il futuro, sono i mercati dell'education del futuro, il capitale umano in questi paesi è straordinario, le persone che vogliono studiare in India, fra questi 500.000 ci sono delle menti brillantissime, molto ben preparate. Bisogna puntare su questi mercati. Un'altra, la interrompo perché abbiamo un altro ascoltatore che vuole portarci la sua esperienza di padre, se capisco bene. Leonardo da Brescia. Sì, pronto? Prego, dica. Sì, salve. Niente, io portavo una semplice testimonianza. Mio figlio fa ricercatore in Inghilterra e giusto per... non voglio, diciamo, entrare nei dettagli, ma solo un episodio, l'unico, diciamo. In che materia? Allora, lui è laureato in filosofia e insegna logica all'università mi scusi, di Sheffield. L'esperienza è questa. Fra i criteri di valutazione, noti che lui è andato lassù come signor nessuno, cioè assolutamente senza nessun appoggio, uno dei criteri principali di valutazione è la capacità di dire, di scrivere in una pagina le motivazioni per cui uno sceglie una certa professione. Questa capacità viene giudicata come un elemento importante, diciamo, oltre ai titoli e ai meriti, diciamo, accumulati negli anni precedenti. Ringrazio Leonardo, la chiarezza autoassertiva è da sempre uno dei criteri, la chiarezza autoassertiva è da sempre uno dei criteri per fare il discrimine della qualità. A me pare, professor Ortu, una riflessione in 10 secondi al volo, che bisognerebbe anche però smontare la pretesa delle università italiane. Noi abbiamo assistito a una proliferazione di atenei, ciascuno dei quali fa il 3 più 2, fa la formazione post-universitaria, i master... non è sbagliato questa idea che tutte le università vogliano fare tutto e tutto il meglio, quando poi quasi nessuna riesce a fare il meglio a livello internazionale? Penso di sì, penso che non mi spaventa il numero delle università in Italia, mi spaventa, e forse ce ne dovrebbero essere anche di più, ma non devono probabilmente tutte quante fare tutta la filiera, il corso di base, il corso di master fino al dottorato. È veramente troppo, non penso che abbiamo necessariamente le risorse, che le risorse migliori sarebbero impiegate. Sarebbe ottimale avere molte università che si occupano dell'educazione universitaria di base, l'undergraduate verrebbe di dirlo in inglese, mentre le specializzazioni a livello di master e soprattutto di dottorato forse dovrebbero essere concentrati in alcune sedi in cui si investono più risorse. Prorettore, lei dice forse, ma a me tocca fare giornalista, purtroppo deluso dalla formazione post-universitaria che mi sono fatto negli Stati Uniti. Io dico che con certezza dovrebbe essere così, questo la politica dovrebbe mirare a fare. Dobbiamo chiudere con la dottoressa Clementi, ringraziandola, ma io vorrei un impegno da lei. Ci risentiamo tra 3 mesi e ci fa sapere come si trova a Boston? Volentieri. E tenga conto che avrà capito che centinaia di migliaia di italiani non solo la abbracciano, le augurano successo, maggior fortuna, ma sperano che lei possa presto tornare a fare il suo lavoro di eccellenza in Italia. Grazie molte, e non mi resta a questo punto che dare appuntamento a domani, dopo aver ringraziato in regia Paolo Corleoni e Giorgio Mattei, in redazione alle mie due braccia destre, io, Gloria Guerrera e Laura Faggin, e la linea al giornale radio.